spate già. È forte e sano, senza alcun difetto. Vedrai, non si fermerà, non si fermerà. Non si fermerà. Qualcuno dice che non vivo, no, ma io esisto già. E sarò una femmina. Mia madre certo mi amerà, certo mi amerà. So che mi amerà. Chissà com'è il mondo fuori, è tutto buio attorno a me, pieno di sole. Vedrò la mamma e il papà, chissà come sarà. Chissà se sente il bisbiglio del mio cuore. Sogno di vivere.